Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! E buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Come avrete riconosciuto dalla sigla, questa sera, questo sabato sera, è il turno di Basement Records con i vinili recuperati per noi dal nostro ospite speciale, che in questo caso, questa sera, questo sabato, è niente po' di meno che Wendy. Ciao, buonasera, grazie di avermi invitato in questa splendida giornata calda. Come minimo, cioè, siamo qui nel forno della tana del Wombat. Ma avevi promesso il condizionatore, invece niente. No, siamo in mezzo alla tempesta perfetta. Certo, un uragano. Tra un po' faremo, cioè, un tornado nella regia del, sì, Wombat. Faremo windsurf. Tra un po', se buttiamo l'acqua in terra, si crea anche una certa marea. Gli scogli l'ha portati? Ho portato tutto, anche l'infradito. Perfetto. Perfetto. Ma cara Wendy, ci racconti un po' come le sono arrivate sotto mano questi preziosi, in questo caso, 45 giri, sono tutti 7 pollici. Ho portato, sì, 45, ma c'erano anche 33, ma più che altro 45. Vabbè, i 33 li porti la prossima volta. Li porto la prossima volta. E mi sono arrivati in eredità, come da tante parti, come mi raccontavi anche te prima, dei miei genitori, che mi hanno detto: io li butto via e portateli a casa. Ovviamente mezzi sono rotti, mezzi rigati che non si possono sentire. No, però, aspetta. Vabbè. Ho sentito delle trasmissioni con dei dischi che erano terribili, quindi più o meno. Però avevano un loro perché, proprio hanno perché tutti. Erano diventati unici per queste caratteristiche. Certo, sì, sì. Cioè con i tizzoni proprio sciolti sopra il vinile, no, quelli io per rigati, questo quelli rotti. Ho anche guardato i prezzi su internet di questi dischi, oscillano tra i 5 e gli 8 euro. Quindi da diventarci fucilaria compressa per fare il tiro a piattello, no, quelle sono messi finora di sicuro ce n'era qualcheduno, anzi praticamente tutti ancora di meno, perché meno di un piattello per il tiro a piattello sicuro. No, ora sentiamo perché ma non è quello che ci interessa, non ci interessa è il valore affettivo, è la testimonianza, certo, storica. E il valore affettivo, certo, che hanno questi pezzi di vinile, chiaro, questi tondi di vinile, certo, per è quello chiunque, che ci hanno lasciato, per chiunque apprezzi la musica, chiaro, certo. E come dico sempre, prima di iniziare, perché conosco i miei folli, prima facciamo le cose che vanno fatte prima di essere bastonati dal grande Wombat. No, non vorremmo mai. Ed è ricordare tutti i nostri indirizzi per mettersi in contatto con noi. Ovviamente per sentire Radio Wombat sulla vostra autoradio mentre viaggiate in macchina, se ai voi capitate nei dintorni delle zone fiorentine, è 1359 delle onde medie del vostro autoradio, o seppure se no, se avete una connessione internet, il sito è sempre wombat.noblogs.org. La nostra mail non è cambiata, è rimasta sempre la stessa, è postawombat@insiberia.net. Ci piacerebbe tantissimo essere in Siberia in questo momento, ma col cazzo. E poi i nostri canali social, perché da che si dica che siamo ormai dal reparto geriatrico, invece siamo anche molto social, molto giovani, molto yeah. Io ho un monte, guarda, non so nemmeno cosa sono quelli. Te li insegno io. Ah, allora, su Twitter puoi andare su Twitter e cercare Radio Wombat Fi, mi raccomando, ricordatelo. Targa, c'è. Se lo segni sul palmo della mano come nei, certo, compiti in classe. Non mi sudato a fradici. Non servirebbe un benemerito in questo caso. Me lo tenga a mente. E su Facebook. Ah, quello sì, quello ce l'ho. Mm? Via, non faccia così. facebook.com/radio wombat Firenze. Certo. Mi raccomando. Certo, sì, sì. Non mancherò. Non manchi, eh? No. Non manchi. No. E ho visto il primo vinile che mi ha appropinquato così gentilmente. È un pezzo che, come si diceva, non penso che non abbia bisogno, no, di presentazioni. Va da sé, perché parla da solo. È uno stragrande classicone che ora tosto vi andremo a far ascoltare. Però volevo fare un appunto, perché di solito chi mi viene a portare la propria collezione di dischi o i ritrovamenti vinilici mi porta i dischi così, ah, ma quale si mette, questo sì, questo no. Invece la nostra Wendy, scopriamo subito gli altarini, li ha portati già tutti in ordine, cioè ha già portato la scaletta in sequenza. Io questo non posso far altro che inchinarmi e a questo punto farvi sentire il primo grande pezzo di stasera di Basement Records, chiaramente qui a Radio Wombat. Quickly look away. I'm a new boy. were blue. I could not foresee this thing happening to you. E questa era chiaramente Painted Black dei Rolling Stone, nel massimo splendore degli inizi. 66? 66, perfetto. Tra l'altro io sono convinta che a casa da qualche parte c'era anche la versione della Caselli tutto nero, che però non ho ritrovato, però sono sicura che c'era da qualche parte. Ah, pensavo fosse il retro, invece, no, non è invece retro, no, no. Invece no, perché questa me la sarei sentita molto più che volentieri. A proposito, sì, che c'è anche la trasmissione. Bravissimo, non lo so se l'hanno messa loro, non l'ho sentita tutta. Tutto nero di Caterina Caselli. Tutto nero di Caterina Caselli, ve la consiglio. Ma era in acido? Non lo so. Era in lutto. Qualcosa avrà assunto, se no come faceva a cantarla? No, sicuramente. Se no, cioè... Anche quell'altra ci voleva coraggio per cantare. Dipende che traduzioni gli avevano fatto comunque. No, no, le sue. Ah. Senza traduzione, quelle sue in italiano. Grande Caterina. Grande, vabbè, sì. Casco d'oro Caterina. Casco d'oro che ha fatto innamorare tutti gli italiani. E poi subito, vedo che già qui sul piatto ce n'è già un altro. Sì, questo l'ho portato proprio perché c'era la copertina del disco che io sto mostrando. Mi stai mostrando, Wendy. Che è Love Story, regalato con i baci Perugina. Che bellissima. Appunto pare che i baci Perugina siano stati ispirati da Love Story per cambiare un po' il brand del bacio Perugina, che però per svecchiare, perché pare che secondo loro veramente? Love Story avesse dato una svolta al, diciamo, al romanticismo. E quindi è nato anche San Valentino con Love non Story. Non lo penso. Perché io pensavo l'avesse inventato la Perugina San Valentino. Ci sta che sia l'abbia inventato San Valentino la Perugina. Scherzaci. Però quindi allora mi piaceva questa cosa e ne ho altri poi regalati da dai baci Perugina. No, allora c'ho quelle degli Invernizzi, dell'Enigmistica Tascabile, solo che quello è l'unico rigido, perché quelli altri sono tutti flex, come si chiamano? C'è un motivo perché questo è rigido, capito? Certo, vabbè, perché la copertina valeva tutto il disco. Però noi abbiamo deciso di non sentire Love Story. No, facile, perché poi quando io ovviamente che sono qui e sono qui a sabotare questa trasmissione, ovviamente sono qui apposta. No, dopo quando... che io mi ero preparata tutto la scaletta, story, no, pam! Non che riguardato. Infatti io ho deciso di mettere il lato B, perché pezzo, quando ho visto che il titolo era Skating in Central Park valeva la pena sentirlo. Lo volevo sentire. Certo, perché... sì, come no. Central Park, secondo me, da skatare c'è tantissimo. A bestia, guarda, un monte di posto. Poi ora che è estate, lo skate ci sta proprio bene. Non mi prendere per il culo, eh. Oh. Sta benissimo. Ora andrei a skateare, guarda. Alle cascine. Appena si finisce vado. Immagino lo skate alle cascine, in una buca, prendi e ti sgrani tutti i denti. Ora, basterebbe già pattini per sgranarmi, skate lascerei fare. Pattini troppo facile, e beh, allora... Procediamo e direi che a questo punto il buon Vince Tempera, certo, come che tutti conoscono, e la sua grande orchestra in questo momento ci canterà e ci suonerà Skating in Central Park dal film Love Story, qui a Basement Records, Radio Wombat. Appena sono partite le prime note di questa Skating in Central Park, ci siamo quasi istantaneamente resi conto che non era andare sullo skateboard, ma era andare a pattinare sul ghiaccio, quindi ancora più amarezza. Ancora che si dice più fresh. In inglese si dice nella stessa maniera. Vedi? Vedi? Invece questi erano andati a pattinare sul ghiaccio al Central Park. Perché cioè, a Central il, film, pa- non, il film non me lo ricordo. Central Park è freddo di solito, cioè, non ho mai visto Central Park d'estate, no. Beati loro. Tutti infatti. Nei film sono tutti coperti. È sempre d'inverno, perché c'è sempre cioè, suo un, fascino. Suo, un suo fascino d'inverno a New York, no? Vai sì. Lì, magari ti becchi la bufera che ti fa un paio di metri, bang. Pompissima. È quello, New Pompissima. York dei film di Woody Allen praticamente. Sì. Ma passiamo oltre. E vedo che già là cosa mi hai appropinquato. Ti ho appropinquato l'ottimo La bambola di Patti Pravo, che anche questa è una canzone che non ha bisogno di parole, parla da sé, sì. Che è chiaro che ci doveva essere una collezione dei genitori, non poteva mancare. Sicuramente, grandissimo successo, infatti vedo direttamente dalle Piper Series. Sì, certo. Piper Series? Ce n'è svariati di dischi del Piper. Cioè era veramente in auge. Molto in auge ai tempi. All'inizio degli anni 60, assoluto luogo di culto. Questo è del 68, La bambola. Addirittura. Addirittura, vedi, guarda anche la Fatti che sembra. La Fatti era stupenda. La Fatti era stupenda e sembrava davvero una bambola. E ci andiamo ad ascoltare la bambola? Sì. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fosse una bambola. Poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi. No, no, ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sei formale da piangere. Grande la Fatti. Grandissima, stupenda. Grande la Fatti. Bellissima, bellissima. Non si sentiva canzone. Neanche male. No, no. Dai. Si sentiva benissimo, direi. Si vede poi, che è rimasto di più dentro la custodia di quegli altri. Poi se dopo quel lavorino alle puntine iniziale. Ah, sì, certo. Quel trattamento che gli hai fatto. Un trattamento per farle ritornare così, diciamo, splendide. E vedo qui già pronto sul piatto un altro grande classicone. E questo l'ho portato, ti dirò, perché ho scoperto che cos'è. Mi dica. MCA. Non era il circolo navale? No, era il circolo dei giovani cristiani. Ah sì? Precisamente, Young Men's Christian Association. Dei giovani baciafile? Dei giovani baciafile, che però pare che fosse frequentato anche da omosessuali che andavano a fare incontri in questi tipo palestre, tipo luoghi di tipo oratori, che posso dire, era molto frequentato dagli omosessuali. Ovviamente nella canzone non esce mai il motivo vero, così, perché sennò sarebbe stata censurata, però effettivamente parla di questo. Grande. No, poi vedo come mi hai fatto notare in diverse copertine c'è degli appunti. Sugli appunti. Questo è un po' così, no, Picot Karin. Non saprei, cioè, che vuol dire. E anche il numero 11. Numero 11, perché sicuramente la mia mamma era paranoica come me e li ordinava per numero, oltre a scrivere il nome su tutti, quasi tutti gli album. Infatti, dove non c'è il nome, secondo me non erano suoi, ma del mio nonno, che era un altro paranoico, fissato, puntualizza tutto. Quindi... cioè, di solito c'è il nome, poi via via che li troviamo. Sì, no, ma ce ne sono alcuni che l'ho portato apposta per gli appunti. Anche solo per quello che c'è scritto sulle copertine. Sì, sì, sì, perché dici, ma perché c'è scritto questa cosa? E anche quello è il bello. Ah, bello che c'è la data. No? C'è la data, perché spesso non si vede bene sul disco, quantomeno sul disco in sé, sulla copertina magari c'è. Sì, però io avendo tanti dischi senza copertina, sì, no, poi impazzisco a cercare la data, sì, e tutto. Invece dici, perfetto. E questo 1978, leggo. Allora, Village People, YMCA, Basement Records, Radio Wombat. Get the- E questa era YMCA dei Village People, altro grandissimo classicone di fine anni 70. E poi adesso Nine, perché qua c'è già pronto un disco che non è propriamente un sì, è sempre un 7 pollici, è un 45 giri, però è in un formato molto molto particolare. Molto particolare, perché è un flexi. Cioè, ovvero, di quelli. Descrivilo ai fischellini. È un disco che si piega come se fosse un foglio di carta. E sembra impossibile che funzioni, però funziona, ha solo un lato ovviamente, certo. Ci mancherebbe altro, e però va, e, anzi va meglio degli altri, perché non lo so, probabilmente si rigava meno, verificheremo molto ora presto. Fa schifo e mi dico che hai detto. E in questo caso abbiamo un grande classico anche qua, che è Tintarella di Luna, ma cantata da una sconosciuta ai più, penso, che si chiama appunto Jenny Luna, che penso abbia cantato questo pezzo perché lei cantava con Mina. Ha cantato anche a un festival di Sanremo con Mina. Pensavo l'avessero chiamata solo per il cognome. No. Era una che cantava con Mina e ha anche cantato Le mille bolle blu di Mina. Blu. Stupenda anche proprio nelle sue capacità canore, appunto. Sì. E quindi ascoltiamoci, eccocela, questa Jenny Luna su questo flexi de Il Musichiere. Il Musichiere. E in questo caso è Tintarella di Luna. Ovviamente sempre qui a Basement Records in Flexi a Radio Wombat. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna. stavamo dicendo in fuori onda, cioè mentre stava andando la canzone, io ad esempio la seconda parte, l'assolo di sax e tutto il resto della canzone non l'avevo mai sentita, e devo dire che l'abbiamo rivalutata praticamente in corso d'opera. Assolutamente sì. E c'è una cosa che posso notare di questo flex è che quando finisce la canzone la puntina continua a andare non è che si ferma al centrino, ma continua a andare avanti. Vabbè, ma vedi com'è stretto? No, bellissimo, no, infatti è fantastico. Fantastico, hai visto che si sentiva anche grazie. Bene, che te non ci credevi. Sì, sì, benissimo, benissimo. Uno dei migliori, con l'audio migliore che si sia sentito qui a Basement. Dobbiamo rivalutare il flex. Infatti, guarda, ce l'abbiamo un altro. Non è subito. No, però ce l'abbiamo. Sul piatto ce n'è un altro, forse. Ora non so quel il flex lì, ma questo è assolutamente significativo. Questo è significativo, però appunto non possiamo che parlare della copertina, perché io ho provato assolutamente a cercare. Assolutamente, bisogna parlare della copertina. Allora, intanto, come si diceva, c'è la data e il luogo dove è stato acquistato. Aulla, sabato 20/10/62. Aulla? Aulla, perché sera? Mia mamma è originaria di là. Vada davvero. Questo è il vero autentico Madison nell'incisione originale. Ma ora sai perché lo scrivono? Perché questa canzone sì. È stata rifatta poi da un altro gruppo che non mi ricordo chi è, non l'ho manco scritto. E Frisbee? No, non so chi l'ha fatto. E praticamente questi qua, che erano All Browns Tune Toppers, una cosa del genere. Non l'ascoltai più nessuno nella loro versione. Ha preso la Ire quell'altra, e quindi sono andati a sparire. Capito? Solo che ora qui c'è anche scritto All Browns Tune Toppers featuring Cookie Brown, che se cerchi Cookie Brown su internet viene fuori tipo un narcotrafficante di una serie. Io pensavo i biscotti. No, anche. Viene fuori prima sto Cookie Brown di una serie a me ignota e poi tutte le ricette dei biscotti. Sì. Però butta via. Anche questo costa 5 euro se vi interessa, poi lo potete comprare su internet. Ormai valutazione di vinili. Se no ve lo regalo io, non c'è problemi. Però volevo fare, come ti avevo già fatto notare prima. Ah, è vero, sì. Allora, la copertina. La copertina, cosa c'è? C'è una pin-up, direi, no? Con una rosa in mano, un reggiseno blu a palle bianche e una specie di tutù. Però con questa gonna esageratamente corta per il 62. E allora c'è stata disegnata una gonna lunga a penna a censura. Fantastico, censurato. Che poi ora penna, poi chiederò chi l'ha disegnata e ve la farò sapere. È molto interessante questa censura. Questa autocensura sulla copertina. Sì, magari la mamma l'ha fatta, perché sennò il mio nonno gliela buttava. No, le devo chiedere. Bisogna sentire. Però sentiamo questa The Madison di All Browns Tune Top featuring Cookie Brown, che non è lo spacciatore. No, nemmeno un biscotto. The Madison. Real big strong line, make it look real fine. On the Madison now, if you don't know how, listen to my call, put you on the ball, Madison time. Two back, false turn, bird land twice, reverse that bird, step back over, rock it back into the Madison when I say hit it, like a rug, that's a hit it, two up, two back, false turn, looking good, bird land twice, one more time, reverse that bird. Line sure swing. You cats are Madison King. Line is nice and strong. couldn't catch a single cat wrong. If you take my call, you'll be on the ball, Madison time. Like two up, two back, into the M, erase it, give me an I. Dot it, rock it back into the Madison when I say, like a rug, hit that thing, let's hit it. Two up, two back. E questo era The Madison del buon vecchio Al Brown's Tune Toppers. Bella. Bella, piaciuta, sì, era un po' piaciuta, rimbambito il disco, però bella. Vabbè, il segno degli anni per dimostrare che sono veri, che sono di recupero, però insomma, a parte sentivo un po' un qua e là, però dai, non c'è... Alti non e bassi, non diciamo. Non c'è male. Ma era la copertina che piaceva da morire. No, infatti la scelta è stata solo per quello. La copertina era fantastica. Sì, perché poi anche dietro c'è tutto un... Appunto, le rendo il vinile. Grazie. Bene, adesso abbiamo un altro Flexi. Ah, però qual è notevole la particolarità di questo Flexi? Questo Flexi, che è una canzone di Perez Prado, tra l'altro, che è... Grande ospite, tra l'altro, di Basement Records, Perez Prado. Davvero? Mi hanno portato un sacco di pezzi di Perez Prado. Perché si vede che era veramente quotato. Andava, decisamente. Sì. Io ne ho tanti, infatti, ne ho portati due. Ora per questo, perché volevo sentire l'intro, diciamo, perché c'è praticamente questo disco... Era in regalo con l'invernizzina, cioè penso con lo stracchino dell'invernizzi, e in apertura del disco c'è la pubblicità dell'invernizzina originale certo. Del ora te lo dico, del 1958. Assa? Cioè. Fantastico, ce la sentiamo subito? Certo. Basement Records, Radio Wombat, altro Flexi. Invernizzi vi augura buon ascolto e vi ricorda Invernizzi Invernizzina e Invernizzi Milione alla panna. Yes, sir. And your lips will always want Patricia. Saw her. See Patricia move with all her chance. Mambo, cha-cha-cha, merengue, hit Patricia. Heaven, that's where you'll be when she's in your arms. Put to replace her baby Dinah, Patricia. And Peggy Sue is jealous too, old Patricia. And when she's wearing her bikini, Patricia, her hips will have you hypnotized. Pirates in Japan, they brag about the geisha. Who cares? Long as Uncle Sam has got Patricia. I'll have a story sort of gleam for you. She is like a million-dollar dream come true. Everybody wishes they could steal her fat away, I guess. there's so many trying, but she never, never will say yes. Kiss her, and you'll let your lovers want by treason. Show her, see Patricia move with all her chance. But in Japan they beg about the geisha. Who cares? Long as Uncle Sam has got Patricia. Kiss her, and your little lover's one, but he got. Throw her, see Patricia move with a foot jump. Bubble, independent beggar, bubble geisha. Who cares? Long as Uncle Sam has got Patricia, Patricia, Patricia, Patricia! Gustate Invernizzi in Vernizzina e Invernizzi Milione alla panna. No? Senti, il milione alla panna io a chissà che era. Per non saperne leggere né scrivere l'assaggerei. Certo, sì, sì, cerchiamolo, compriamolo su Amazon. Ci vuole Amazon 58, però. Sì. L'omino che te lo porta sotto casa e cali il panierino. Poi con questa temperaturina che c'è. In questi giorni lo vorrei vedere il milione alla panna. Si spalma che è una meraviglia. Il milione diventa già 100 lire, te lo dico subito, cioè come lo portano fuori dai frigo. Sì, sì, sicuro. Già non è più un milione in euro, ecco, vero? Sì, 500 euro scarsi, sì, diventa. Ma nemmeno. Guarda. E poi qui vedo un altro super classicone. Un super classicone, anche questo così, portato perché di dovere proprio. Di dovere, tra l'altro. C'era. In crucco. In crucco con sul retro, giusto per non farsi mancare niente, anche qua vedo una bella pubblicità degli occhiali veramente notevoli. Non sì. So se. Bianchi sono bellissimi. Se rimembra. Sì. Cioè gli occhiali, in questo caso dei Beatles, che ve li farei vedere, e è tutto scritto in tedesco, bellissimo, e in questo disco il lato A è Michelle, mm-hmm. Che non ci andremo a sentire, no. Perché tanto la sa anche il maiale. No, infatti. E invece ci sentiremo il lato B che è il lato Girl. B che è Girls. Bene, e questi sono gli Scarafaggi. Ovviamente qui a Basement Records, Radio Wombat. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl. Tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. She's E questa era Girl dei Beatles in 45 giri 7 pollici dalla collezione di Wendy. E poi abbiamo trovato questo disco che non poteva mancare in una collezione anni 60 di Gianni Morandi. Come fai a non metterlo? Come fai? Che secondo me però alla mia mamma non gli garbava Gianni Morandi. Non era come la mia che, come si dice a Firenze, ne ha buscate per andarsi a vedere Gianni Morandi che faceva il militare qui a Firenze, il militare di leva. Non ho mai sentito dire questa cosa, però magari questo c'era, non era di famiglia, che ne so. Conoscendo mio nonno, c'è il caso, anzi sicuramente quando poi gliel'ha date, perché come dicevi te probabilmente se le meritava, perché era andata a vedere Gianni Morandi, avrà tirato una sequela di bestemmie di quelle epiche che solo lui poteva tirare fuori, sicuramente, e le più belle che io abbia mai sentito, tuttora ancora sono ricordi suoi, ecco. Le bestemmie di fantasia, bellissime. Però ci vogliamo sentire, proviamo. Il disco è in versione distorto, probabilmente in versione psichedelica, a vedere, però è molto bello vederlo girare sul piatto. Sì, in puro stile Basement Records, direi. Se ne è fatti suonare di peggio. Vediamo come va. Sentiamoci allora, se l'ha detto, In ginocchio da in te. In ginocchio da te, certo. Bene, sempre qui a Basement Records. Forse in versione psichedelica. Non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Io voglio per me le tue carezze, sì, io t'amo più della mia vita. Io cercherò il perè e bacerò le tue mani, amore. Non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita, io voglio per te le tue carezze. Amo più della mia vita. Meno male. Va bene, uno era aperto, ma meno male. Va bene. Poi volevo dire, di questi qua uno si ricorderà di certo i film di questo Gianni Morandi. Che da sua mamma andava quando faceva il militare davvero, ma lui che faceva il militare ne ha fatti 30 di film. È rimasto militare per diversi. Per diversi anni, sì, sì. Una leva a lungo termine. Certo. Poverina, tutto sfigato, sempre abbandonato. Ricordo che c'aveva anche... Guarda che faccino c'aveva, qui in copertina. C'aveva tipo parente Frank e Ciccio in qualche film. Qui tutori, non mi ricordo. Sarebbe stato meglio ci avesse avuto come parente Alvaro Vitali. Guarda. Lo so, è lui quello gli è capitato. Ma lui era un bravo ragazzo. Mica si può dire Alvaro Vitali. È vero. Che amarezza. Che amarezza. Ci avesse avuto come zia Ledvige. Andava tutto in un'altra maniera. Sarebbe finita tutta un'altra storia, secondo me. Eh? Bene, invece ora abbiamo qua i Platters. I Platters. O le Platters. In questo caso, che forse stavamo deducendo che poteva darsi e fosse una... Anzi, no, sicuramente, perché... Sì, il retro è scritto in francese. In francese, ma anche sul resto del centrino, Super 45 Tour. Tour. Guarda, però qui... i miei ricordi del francese delle medie. Però senti, quello tedesco... 45. Quello del tedesco non lo so, però questo può essere giustificato, perché la mia mamma con i miei nonni ha vissuto in Francia. Alla? E quindi, visto che c'è la data in francese, potrebbe essere che l'hanno comprato in Francia. Però ci narri un attimo degli appunti sulla copertina. Allora, gli appunti che quelli ci interessano sono appunto quella data, Sandy, 13 avril 61, le mie ricordi del francese, con un'altra cosa scritta accanto illeggibile, e poi un indirizzo. Sì. E poi un indirizzo di La Spezia, Migliarina, via Nazionale 36, che boh, forse era accanto al telefono e ci hanno scritto sopra. Me la spiego solo così. Bellissimo. Però questo l'ho portato perché io mi ricordo che l'ascoltavo da bambina nel mangiadischi. Me lo ricordo benissimo. E quindi forse questo disco è più peggio di quegli altri, sì, perché l'ho maneggiato. E qual era la tua preferita? Only You. Che ovviamente non metteremo. No, perché te mi hai cambiato tutta la scaletta. Ora ascolteremo The Great Pretenders. Right. Chiaramente. E Le Platter qui a Basement Record. Mais oui. Radio Wombat. Can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. That you're still around. Too real is this feeling of make. tender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still non male, non male Le Plateur. Le Plateur. Non male davvero. Sì, anche perché era ridotto male il disco, perché comunque non c'era male però, sì. Visto insomma che mi immagino tu l'abbia ascoltato per come l'ho ascoltato per come stavi karaokeando durante no ma questo c'ho proprio memoria di averlo sentito insieme ad altri che ho portato, a questo qui Only You mi aveva colpito particolarmente. All'epoca ero romantica, poi ho perso la mia verve. Infatti dopo infatti non subito dopo, non ma subito, tra pochino, tra breve, giusto per far vedere quanto sei romantica. Però prima di far scoprire quanto la nostra Wendy sia romantica, vabbè, prima questa che è banale, cioè chi mi conosce lo sa che l'avrei portata. Chi mi conosce lo sa. Perché non potevo, anzi mi avevano detto non portare tutto Celentano, però una la dovevo portare per forza. Una ho scelto questa, portata, che è la mia preferita. Addirittura? Sì. Aspetta, fammi ricordare un attimo qual è. guarda, a te non la conosci, hai detto, ma non è impossibile. Ah, ti ho messo il lato sbagliato, ovviamente. Aspetta, rigiro il vinile. No, lo devi rigirare perché non so nemmeno cosa c'è di là. C'era Rock Matto. Rock Matto non la conosco. L'avevo fatta apposta, ovviamente. Eh certo, lo so, mi stai sabotando la scaletta. Sabotaggio! La prossima volta vengo con te la roba scombinata. Oh, meglio, mi troverei già più a mio agio, E il preferito di Wendy il preferito di Wendy è impazzivo per te del molleggiato nazionale, ovviamente qua a Basement Records, Radio Wombat. Aspetta che non va l'Adriano, temporeggia. Temporeggiamo. Alla faccia, a saperlo, ne avevo altri 10 di dischi di Adriano, potevo portarli tutti. Chissà come mai. Vedi, mi stai boicottando. L'hai consumato. Cioè, l'ho sentito 3 giorni fa prima di portarlo. E ora sei te che non me lo fai andare. Non va. Vabbè, allora... dobbiamo passare oltre. Proviamo Rock Matto? È quello che mi aveva detto di non portarlo che mi sta, mi sta portando sfiga. Vabbè, proviamo Rock Matto. Se non va neanche Rock Matto, poi ti porterò una a caso. Le hit le ho tutte. No, vabbè. Adriano non funziona. Il molleggiato ci lascia così in silenzio, ma solamente perché volevi far sapere a tutti che sono molto romantica. Quanto sei romantica. Infatti ho portato il nostro Tony Dallara. Il buon vecchio Tony Dallara, qui direttamente dal 10° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ti voglio dire una cosa su Tony Dallara, 2 cose. La prima è che l'ho sempre sentito nominare, ma non ho mai saputo chi sia. E 2 è che questa canzone è stata tradotta in giapponese. Addirittura? Sì. E come si chiama? Non lo so. C'era scritto su Wikipedia. Io volevo sapere come si diceva romantica. Dobbiamo chiedere l'aiuto a casa. Chiamateci ora, se lo sapete dire come si dice romantica. A casa. Sì. E proviamo a vedere se. Proviamo, via. Proviamo se Tony funziona. Proviamo. Dai, Tony. Dai. Tony funziona. Vai. Vedi, ti stanno boicottando la Adriana. Lo so. Lo boicottano. Sì. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te perché sei come me, romantica. Tu sei romantica, amarti un po' di vivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sole, come fai tu? Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso per me. Ed io che accanto a te sono ritornato a vivere, a te racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica tu sei. Tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso per me. Tu sei romantica, amica delle nuvole, a te racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica tu Cara Wendy, si vede che sei romantica, perché anche questo l'hai abbastanza consumato, questo Tony Dall'Ara. No, questo Tony Dall'Ara non ho mai ascoltato. Come? No, sono sicura. Smentisce tutto. Nego. Voglio il mio avvocato. E poi? Dammi la copertina, qui passo la copertina. Abbiamo una splendida copertina di Frankie Avalon, che già Avalon, vero? Notevole. Che era non era tanto famoso come cantante probabilmente da noi, ma era famosissimo come attore, forse neanche da noi. Bomba. Dice che faceva film di tutti i generi, anche western. Cioè proprio anche era porno? No, tutti i generi. Non è riportato. lì sì. No, da fantascienza, sì. Fantascienza, immagini che film di fantascienza faceva in quegli anni. Gustosissimo. Western e famosissimo, per dire, in una comparsa che fa in una scena che secondo me nessuno si ricorda di Grease. In cui c'è una delle ragazze. Lo stavi dicendo prima. Sì, una delle ragazze che è quella con la voce così. Che aveva i capelli l'Olivia. Biondi. No, c'era l'Olivia, poi quell'altra mora che si chiamava Rizzo. Rizzo si chiamava Rizzo. Era una delle amiche di Rizzo. Non me lo ricordo il nome. Sì. Un nome, un programma. Aveva un nome più normale. Vabbè, era un nome italiano del sud Italia. E questa qua sognava di avere di fare l'estetista, Rizzo? No, l'altra, questa biondina che c'aveva la voce così. Una volta in una scena del film sogna che apre questo negozio di estetista e si presenta Frankie Avalon che canta questo pezzo, non questo, un altro. Ah sì? No, questo sì. Me l'ero... No, ma è una scena del film che nessuno, secondo me, si ricorda perché è inutile, di passaggio. Cioè, mentre andavano tutti a prendere la birra. Giusto un cameo per il buon Frankie, eh? Secondo me era proprio per farlo partecipare. Guardiamo, e tra l'altro guardiamo... Facciamo una prova per vedere se è proprio destino che il buon molleggiato non funzionasse oppure è proprio una questione di feeling, una questione di feeling nonché una questione tecnica. Verificheremo subito. Basement Records, è una questione tecnica. Oh, evviva. Ti posso rimettere Adriano? Certo, me lo devi rimettere. Solo se mi temporeggi. Temporeggio? Certo. Temporeggio bevendo spuma. Chiedo stranamente fonti e mi danno avanzi. Cristo! Stranamente non posso neanche temporeggiare su nulla perché su questo disco non c'è scritto niente, uno dei pochi. Però vi assicuro che Frankie Avalon era veramente un bravo bambino. Un bravo guaglione? Sì, c'ho una foto, qui ci avrà 16 anni, con un farfallino strano nero, la giacchettina, molto carino. E vi consiglio a tutti di riandare a vedere quella scena di Grease, perché appunto... Come si dice? Emerita. Emerita. Se no uno si ricorda sempre le solite... Però senti che ti faccio partire grande, adesso. Grande. Basement Records. Radio Wombat, Adriano. Oh, non va Adriano. Guarda che non va Adriano. Guarda che non va. Non Adriano. Va né di chi né di là. Né di chi né di là. E allora mettilo di là. Dai, ma come mai? Guarda lì Adriano. Ora vado a casa e l'ascolto e poi ti mando la registrazione su WhatsApp. Un po' di infame, testa di minchia. Basta. Va bene, quindi è tutto un temporeggiare. Temporeggio. È meno caldo di prima. Abbiamo creato una situazione. Quando? Di frescura con i ventilatori incrociati. Uno bianco e uno nero, che non faccio manca niente. Bene. Uno bianco e uno nero noi. Ah, è vero. Mannaggia. Vietato, Ho capito. Però ce l'avete uno bianco e uno nero, fate due viola. Questo ormai è beige. Ah, uno beige. Ormai è beige, vedi come non è proprio bianco. E allora quell'altro non è neanche nero, è grigio. Bene. Grigio. Guardiamo e beige. Se parte il nostro... Chi era questo? Avalon. No? Laissez faire? No, ecco, ha fatto un casino. Ma mi ha buttato all'aria tutta la scaletta. Ah, aspetta, eccolo. Io non lo so ora cosa sta facendo. Frankie, ero passato. Ah, non mi fa sentire Adriano. Mi mette all'aria i dischi. Ero già passato oltre. Mi toglie il Frankie. Non funziona più nulla e fa un caldo bestia. Ovvia. E non ci sta più niente da bere. Aspetta. Ovvia, vediamo, Forse Frankie Avalon. If our romance is through, if other arms are calling you, then don't let me stand in your way. Ovviamente non era quella la questione. Adesso è finito il buon Frankie e ci andremo a sentire, ora che la buona Wendy è andata a prendere il rifornimento, gli faremo una sorpresa e metteremo il buon Adriano. No, è tornata in tempo. T'amerò così tanto per tutta la vita. Basement Records, Radio Wombat. Saprò darti il mio cuore come quei dì. E tu sai, bimba mia, che impazziva soltanto per te. Mai, mai, mai più io potrò carezzarti, dolce bambina. Mai, mai, mai più dolci frasi d'amor sentirai come andrì. E per sempre scordarti dovrai un amore così. Ero pazzo di te, eri pazza di me, ma purtroppo capii che non eri per me. Da quel giorno che tu mi tradisti così, perché cuore non hai e mai fatto soffrire. Mai, mai, mai più t'amerò così tanto per tutta la vita. Mai, mai, mai più sai, bimba mia, che impazzivo soltanto per te, impazzivo per te, soltanto per te, impazzivo per te. E finalmente, finalmente l'abbiamo fatta. Ce l'hai fatta anche a tornare in tempo. Sì, ho fatto una corsa. Te lo volevo mettere proprio a merda per dire: ah, l'ho messo, ma te non c'eri. No, invece c'ero. Invece ha fatto le corse, ce l'ha fatta a sentirlo. E non l'avevi mai sentita? Sì, sì, no, questa sì, l'avevo sentita. Perché tutti pensano che si chiamino mai, mai, mai più. Mai, mai, mai più. Invece no. E tra l'altro qua c'è un altro grandischetto, vedo. Con sì. Questi però sono francesi, così occhio e croce. perché ora fai te, perché io questo disco non me lo ricordo. Le Serfs. Ah, le Serfs. E sono, tra l'altro, le foto sono tutti ragazze e ragazze di colore. No, perché non sono francesi, sono del Madagascar. Ah, vedi, infatti c'è scritto, sono del Madagascar. Sono del Madagascar e praticamente si sono, non lo so come, ma sono stati scoperti da Tony Renis, che allora, quindi li ha sponsorizzati in Italia e li ha anche portati a suonare con la Rita Pavone. E infatti dice: stampati in Italia su licenza Festival Records Parigi dalla compagnia generale del disco. Sì, sì, allora, sì, sì. E quindi sono malgasci. Malgasci si dice, esatto. Braverrima. E quindi Le Serfs con L'importante è essere liberi. Qui a Basement Records, Radio Wombat. Per le strade me ne andrò insieme a te. La chitarra solo lei verrà con noi. L'importante è essere liberi, l'altro si vedrà. Per le strade me ne andrò insieme a te. Per mangiare ruberò quel che si può, per dormire credimi un posto c'è, l'importante è essere liberi, l'altro si vedrà, siamo i primi a vivere di libertà. Chitarra solo lei ci servirà per cantare agli uomini la verità. L'importante è essere liberi, l'altro si vedrà. La chitarra solo lei ci servirà. E l'amore guardami esiste già. Cosa cerchi allora? Che cosa vuoi? Dopo un anno vai nella città e la gente libera ti capirà. L'importante è credere, credere in Dio. La tua fede è l'unica che vincerà. In effetti è abbastanza canzone da oratorio, eh? Oratorio, sì, sì. Direi di questi da scout più che da oratorio, sì, proprio vero, davanti al falò con la chitarrina. Importante essere liberi. Ah, però questo qui è qui, uno dei miei preferiti, questo qui, qua. Qui, infatti. Questo qua è, come è stato detto, a Ghigo Agosti, 1959 addirittura. Ah, ma qui ancora siamo negli anni 50? Siamo ancora negli anni 50 e pensa che ora ti ho fatto mettere questa perché mi garba. Però dietro c'è questa coccinelle, che forse è coccinelle, perché questa coccinelle era una transessuale parigina. Notoria. La prima transessuale d'Europa, sì. Oh. A cui lui ha dedicato questo pezzo. Giustamente, però mi avevi detto che volevi sentire l'altro. Volevo sentire l'altro perché è veramente notevole. Ah, bene. No, quindi se no che facciamo? Ci sabotiamo a vicenda? No, no, no, non ci sabotiamo. Già l'hai fatto abbastanza, si è rotto tutto, non funziona più nulla. Qui, surprise. Capito? Quella palla rovescia, non si capisce niente. Ormai, e queste sono sempre le sorprese di Basement, che c'è sempre quella carta imprevisti che da un disco all'altro puoi pescare. Certo. Puoi pescare che non funziona più nulla. Esatto. Certo. Devi trovare tutto su YouTube. Bene. Però ancora ce la stiamo cavando. Ce la stiamo cavando alla grande. Egregiamente. Certo. E quindi adesso andiamo con il buon Gigo con canzone. No. La stazione del rock. No, mi stavo iniziando a girare la testa perché la stavo tentando di leggere mentre stava già girando. Chiaramente qui a Basement Records, Radio Wombat. La stazione, aspetto te, io mamma. Fermare tutti i treni, io vorrei fare controllo, io mamma. Il ferroviere del rock. Il treno allora arriverà alla stazione, bacerò te, io mamma. Mi metterò a cantare, io mamma. Sul treno a ballare, io mamma. Alla stazione del rock. 54 ore l'amore durerà, e poi con rotto il cuore perderò te. No, non mi lasciarti prego, no, non posso stare solo, no, resta la stazione del rock. Ancora un bimba a te alla stazione, aspetto te, io mamma. Mi freme tutto il cuore, io mamma. Pazzo son d'amore, io mamma. Ti canto questo mio rock. E questo era Gigo e gli arrabbiati. Gigo e gli arrabbiati. Belli incazzati. Chissà chi erano. Saranno stati dimenticati proprio dalla storia della musica. Non c'ho neanche, era senza. Allora si mettano su il surf. Mettilo sul surf. Brava. E adesso guarda qui che capigliatura. Notevole. Sembra il caschetto da Playmobil. Ce l'ha ancora però un po' capelli così lui, Sì, è vero. La mantenuto, o se l'hai fatto rimpiantare. Anche la mascella gli è rimasta bella, E stavamo parlando di Mal dei Primitives, come dimenticare il suo capello fluente. Anche lui, sai, loro erano un gruppo inglese che cantavano in Inghilterra senza successo quasi, e sono stati scoperti dal proprietario del Piper e portato in Italia a fare carriera. Lui è da lui da buon compagni. Dal buon Gianni. Ho capito. Che avevano in mano tutta. Infatti, l'ambaradà. Produzione Piper Club. Vedi? Mm-mm. Come ti dicevo prima, c'era più di uno. Edizione fuori commercio, leggo anche. Chissà perché. E quale vorresti sentire di questi due lati? No, narrami. Non lo so, avevo messo Vite Vendute. Ma giusto quello che ho. Ma così, senza motivo, Non è che mi garbava più di quell'altra. E Allora sentiamoci Mal con i Primitives a Vite Vendute. Aiuto! C'è degli scratch, eh? Qui è Mal che vi parla. Oggi vi faccio ascoltare un canzone dal Basement Records, Radio Wombat. La musica è per il testo. Mi sta particolarmente a cuore. Vite Vendute. Su altro lato ho scelto per voi un pezzo interpretato di un complesso dei miei amici americani che fanno parte del mio clan e che sicuramente voi già conoscete, i Falkens. Ciao a tutti! Sapeva neanche lui, neanche lui, che cos'è, che vuol dire. Vite vendute, vite vendute, vite vendute. Questo era il buon Mal. E come stavamo dicendo, sì, commentando la copertina, i Four Kents, i quattro ragazzi del Kent, probabilmente erano quattro fastoni raccattati in giro per le strade del Kent. Chissà che città c'è nel Kent, boh. Ora mi cogli impreparato. Anche a me parecchio. Mi cogli impreparato, però stavamo dicendo che questa era una canzone scelta da Mal per gli amici di Bella. Bella, che per chi non lo ricordasse era un'ottima rivista femminile, un ottimo rivistone. Sì. Di quelli che appunto si diceva prima dava i flexi, invece loro, perché erano più fighi, davano il dischetto rigido. Il cioè degli anni 60. Il cioè degli anni 60. Però secondo me era da più grandi. Non era da adolescenti, no, cioè no. Da donne. Da donne. Grazia. Tipo, grazie Bella, tutte quelle cose lì. Ma Graziella c'era. C'era anche Graziella. Fa fare tutte le battute sessiste. Sì, Sì, mi fai passare male. Ho capito, però. Ho capito. Queste sono proprio servite su un piatto da. Se verrò censurata, è colpa sua e non mia. No, no, sempre colpa mia. Ah, meno male. Quello, quella a prescindere. Ora cosa metti che mi hai scombinato tutto? No, non è vero, me l'avevi detto. Ah, te l'avevo detto io. Ah, anche questo è un altro pezzo, veramente. Che vabbè. Va un altro classicone che non dobbiamo. Un classicone cantato da un classicone, perché non perché portare la versione normale originale? No, perché no. Ovviamente non è l'originale, no. Che è di Dave Apple e di Cal Mann, che è scritta da loro due. Scritta da loro due, ma cantata in questa nostra versione dal buon Peppino di Capri. Da buon Peppiniello di Capri, soprattutto con i suoi rockers. Ah, è vero. Ah beh. E sentiamoci Let's Twist Again di Peppino di Capri. Yeah, qui a Basement Records, Radio Wombat. Peppiniello di Capri e i suoi rockers con questa Let's Twist Again, che si sente male, ma non per colpa mia, esatto. Poi sembra che voglio proprio specificare questa cosa. E adesso noi, allora, io qui ho portato Equipe 84, che anche questo non può mancare nella collezione. Io ho in mente te. Però il mio sogno era di portare 29 settembre, perché era un altro disco che sentivo da bambina. Ma non era di Vannelli? Vandelli, sì. Che però era nell'Equipe 84. Non mi cascare su queste banalità. Hai ragione. E questo però ti volevo dire, che ti ho portato la copertina, perché loro sono vestiti tipo... Se puoi dare un occhio, sono vestiti tipo Arancia Meccanica. Bellissima. È anche molto psichedelica. È molto psichedelica. E c'era 29 settembre e Dall'amore che nasce l'uomo, di cui non ho nessun ricordo, però 29 settembre l'ascoltavo a Bestia insieme ai Platters. Ah, sì, un grande classicone. Mi piaceva tanto quando avevo 5 anni. quando avevo 5 anni. Insieme a Heidi e che ne so io, Gig Robot d'acciaio. Perché poi la prossima puntata si fa su cartoni animati. Ci sto, assolutamente. Ce n'ho tanti. Ci sto assolutamente. Quello si può parlare a valanga, ore e ore. Proprio ciao. Non c'è versi. E quindi tra una cosa e un'altra l'ho perso il disco. Ha perso il disco? L'ho perso, come? Mi è rimasta solo la copertina. Tutta questa presentazione. No, però... Abbiamo creato tutto questo hype. No, io in mente te ce l'ho. E te lo darò anche nel verso giusto, visto che cambi tutte le carte visto in tavola. Visto conoscendo il soggetto. E anche qua il disco, addirittura non la copertina, ma il disco è firmato da mia madre, che se fosse famosa avrei miliardi adesso. Venderei. Quindi copia unica. Sì. Pompissima, veramente. Vediamo come va questo Io in mente te. Che forse anche questo l'ho consumato. Perché io ho fatto un lavorino, non so se hai assistito. Abbiamo fatto un lavorino tecnico al giradischi. Estremamente tecnico. Estremamente tecnico. Lo definirei, per vedere se migliorava la qualità. Vediamo se. Guardiamo questo... se siamo stati fortunati. Se funziona, poi vi diciamo anche cosa abbiamo fatto. Forse. Basement Records, Radio Wombat. Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, ed ogni sera, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Ma ho in mente te. Ogni mattina, ed ogni sera, ed ogni notte. Penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Ed ogni mattina, ed ogni sera, ed ogni notte te. È finita all'improvviso. Insomma, comunque sembra che questo accorgimento tecnico sia è andato funzionato. Alla grande. Sì. Però non vi sveleremo i nostri segreti. Non vi sveleremo il trucco. Non vi sveleremo il trucco. Ce la teniamo per noi. Va bene, l'ho promesso, perché sennò poi qui dicono battute sessiste. Capito? Fate la facile ironia. La facile ironia, cioè, avete ragione, va bene. Evitiamo di svelarvi i nostri segreti. No. Poi se no ci copiano. No, è vero. Allora, dobbiamo fare un altro test. Ora si fa un altro test, perché prima di andare via si vuole provare tutto. E vi useremo come cave, ovviamente, qui come grande tradizione al Radio Wombat. Perché prima l'accorgimento si è fatto su quell'altro giradischi, ma non si è più provato. Ora vogliamo vedere se funziona. Sa provare? Vai. Guardiamo. Cosa si... Lo diciamo dopo cosa stiamo per mettere. Intanto proviamo a metterlo. Dai! Well, I'm a blue-eyed black man, but you're good.

finale degnissimo, direi. Grande. Grande, perfetto. La riusiamo anche per la prossima volta come chiusura, certo. Questa? Chiuderemo sempre con questa. Qualsiasi cosa mettiamo. La ringrazio sentitamente. Prego. Un onore. per questa conferma del mio delirio. E a questo punto non mi resta che rinnovare l'appuntamento con Radio Womb, con le dirette di Radio Wombat domani, domenica, con La Fuga del Gatto, con Bloody Mary e la Virgi, che ci regaleranno del sano ripiglio da domenica pomeriggio con la musica classica su Radio Wombat. E a questo punto non posso che chiedere i saluti finali a Wendy e rinnovare chiaramente l'invito per mettere tutti i dischi che ha portato e non abbiamo messo stasera. Io ti ringrazio. È molto ingabanato, Ti ringrazio tanto, sono contenta di essere venuta, vi fa piacere. Ci sono rimasti gli altri dischi, poi altri un migliaio che ho a casa. Millemila, poi ora. Millemila e poi vabbè, quelli miei proprio. Quante puntate cartoni. Si fa? Se ne può fare quante vuoi, guarda. Pompissima. Senti, però facciamo quando scende la temperatura sotto i 29. Come, almeno. Non si è sentita a suo agio. Mi sono sentita molto a mio agio in questa sera, a voi che vi piace il caldo. A noi che ci piace il caldo, sì. Diciamo bene. Stavo meglio a casa mia, c'era più fresco. A me sarebbe fatta anche tendini. Invece erano seccate anche le puntine del giradischi. Si è seccata anche le puntine del giradischi. Per far capire che situazione è. Immaginatevi voi. Infatti. Quindi voi. Bene, ci si vede a novembre. Perfetto. E non sbagliare. Grazie, sentitamente. Grazie a te. Un buon sabato sera. Grazie. Qui da Radio Wombat. Grazie mille. Da Tonight Alive. Un abbraccio a tutti, buon sabato sera, non fate i bravi. Ciao.